La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici, ben ritrovati alla Rosa Purpurea, all'ora di cinema di Radio 24. Una settimana nella quale il, diciamo così, ritorno alla normalità si avvicina, perché il 15 giugno, il momento della riapertura possibile delle sale, poi vedremo quanto davvero effettiva, ma insomma possibile, si avvicina, ma anche perché sempre di più sono i film che tentano le strade dello streaming a pagamento, legati e collegati proprio a una sala di riferimento sul territorio. E questo chiaramente ci avvicina un pochino a una normalità, alla scelta di un cinema, di un posto per poter vedere un film, magari a casa nostra, ma comunque di prima visione. È il caso per esempio di Dopo il matrimonio, ne parliamo fra poco, che va sulla piattaforma di Mio Cinema, ma ci occuperemo anche di una novità su Netflix, un film d'azione molto tosto, futuro distopico, che si intitola The Last Days of American Crime. Parleremo anche di un film molto interessante che ha vinto molti premi nel circuito dei festival più indipendenti, cioè In viaggio verso un sogno, con Shia LaBeouf. Sarà con noi Leo Muscato, regista di uno degli 8 film italiani che Rai Cinema sta proponendo un po' alla volta sulla piattaforma di Rai Play gratuitamente, ed è un film assolutamente di prima visione, si intitola La Rivincita. E ancora parleremo di un film d'animazione per bambini, una curiosa proposta che è Scarpette rosse e i 7 nani. Avremo anche un collegamento con Elisabetta Sgarbi, che ha presentato proprio in settimana l'edizione di quest'anno itinerante e anche un po' resistente della Milanesiana, e parleremo, ci soffermeremo sulla parte di cinema, che è molto molto interessante e coinvolge anche Carlo Verdone in maniera abbastanza particolare, lo sentirete dopo. Giocheremo insieme, come sempre, con il nostro DVD Game per farvi vincere i migliori film della stagione. Ma allora cominciamo con il primo film, la prima novità nella sala virtuale dello streaming territoriale, chiamiamolo così, quello dove scegli un tuo cinema di riferimento e decidi che il film, per quanto a casa, lo stai vedendo lì. Mio Cinema, la piattaforma di Occhi Pinti, mette a disposizione un film che era uscito brevemente nelle sale prima del lockdown per il coronavirus, poi chiaramente è stato spezzato e adesso finalmente può trovare il suo pubblico. Si intitola Dopo il matrimonio, ce lo racconta Chiara Pizzimenti. Usa l'immaginazione. Puoi creare quello che vuoi. Il cibo e i letti che ci avevano promesso. Chiedono che tu vada a incontrarli a New York. Vogliono darci milioni di dollari. Tornerò solo con una valigia piena di soldi. È un ritorno a casa che non vorrebbe, quello che è praticamente imposto a Isabel. La donna ha dedicato gran parte della sua vita ai bambini di un orfanotrofio indiano e ha stretto un rapporto madre-figlio con un bimbo di 7 anni. L'orfanotrofio ha però bisogno di quei soldi e Isabel torna negli Stati Uniti dopo più di 20 anni. Tu devi essere Isabel. Sì, sono Teresa. Piacere di conoscerti. Abbiamo una lista di priorità. C'è il catering sull'altra linea. Mi dispiace, è un momento molto impegnativo. Mia figlia si sposa questo weekend. Vieni al matrimonio, ci conosceremo meglio. Vi dichiaro marito e moglie. Congratulazioni! Sì. Lo vedete? Sì. Ciao, ce l'hai fatta allora. Isabel ha un orfanotrofio in India che vorrei finanziare. Oh. Già. Che cosa ci fai qui? Si ritrova alla cerimonia senza sapere che Grace è figlia, biologicamente, solo del marito di Teresa. È invece lei la vera madre della sposa. Lo capisce subito, riconoscendo il padre della figlia che lei pensava fosse stata data in adozione. È solo la prima di una serie di rivelazioni che cambierà l'esistenza di tutti i protagonisti. Farò 6 mesi qui e 6 mesi lì. Non è negoziabile. Ti prego, non sprecare tempo a far finta di non volerlo fare. Tu credi che me ne freghi qualcosa dei tuoi soldi? Sì, lo credo. Credi che io sia in vendita? Mi vuoi comprare? No, non voglio comprarti. Ti sto offrendo un'opportunità. Solo stronzate! Ecco che cosa c'è scritto qui dentro. Chiamalo come ti pare, non mi interessa, però. Pensa a tutti i bambini che potresti aiutare con quella somma. Per loro ti venderesti. Tu non mi conosci. E invece ti conosco. La storia raccontata da Bart Freudling non suona nuova. È al femminile quanto già Susanne Bier aveva messo in scena nel suo film del 2006 con Mads Mikkelsen. La coppia di protagonisti era allora al maschile, ora sono due donne, Michelle Williams, che è Isabel, e Julianne Moore, Teresa, moglie del regista e interprete di quasi tutti i suoi film. Sono loro due, insieme a Billy Crudup, che è l'uomo fra loro, a sostenere l'intero film, che vive nelle loro interpretazioni. Il tema è evidentemente quello della maternità voluta e rifiutata, biologica e adottiva, ma non è il solo. Questo film racconta anche la scelta di un uomo di essere padre e del rapporto con la figlia. Più in generale sono i fatti della vita, che non possiamo controllare, a essere protagonisti di questa pellicola che vive dei suoi attori. E Chiara Pizzimenti ci ha raccontato questo remake, come avete sentito, di fatto, di un film anche abbastanza famoso di Susanne Bier, con questa coppia Michelle Williams, Julianne Moore. Film molto molto interessante, dopo il matrimonio, con l'incedere delle emozioni che piano piano prendono il sopravvento, e sostenuto da due attrici davvero in grande forma. Il film è su Mio Cinema, come dicevamo. Noi a questo punto sentiamo subito come vanno le cose sulle strade, perché fra poco ci trasferiamo nello streaming in abbonamento, andiamo su Netflix, dove proprio dal 5 giugno, da poche ore, c'è a disposizione un nuovo film inedito, sentito The Last Days of American Crime di Olivier Megaton, ed è un film, come dire, duro e puro sul tema di un futuro che, come sempre, è distopico, tanto il cinema ormai ce l'ha insegnato, ma è un futuro anche abbastanza prossimo ventura e abbastanza inquietante. La rosa purpurea. Hanno usato il segnale per ucciderlo. Io voglio usarlo per rubargli i soldi. Che ne pensi, Brick? Sei tu che puoi aiutarmi a rubare 30 milioni di dollari? Perché tuo fratello credeva di sì. So della ragazzina. Hai mai sentito l'espressione? Dietro a ogni grande uomo c'è una donna. Sono una ragazza a cui piacciono le auto veloci e le grosse cifre. The Last Days of American Crime, la novità Netflix dal 5 giugno sulla piattaforma a pagamento della N Rossa, un film firmato da Olivier Megaton e con una radice, una matrice che è quella di una graphic novel del 2009, dal titolo omonimo peraltro, firmata da Rick Remender e Greg Tocchini. La storia è quella di una crisi, di un futuro prossimo venturo, di una crisi economica, forte crisi economica e aumento della criminalità a dismisura negli Stati Uniti. Sembra quasi di vedere le immagini dei telegiornali di questo ultimo mese e mezzo, che porta il governo a mettere in atto una misura molto particolare. Si chiama API, cioè American Peace Initiative. È un segnale radio che di fatto toglie l'elemento del crimine dalla testa dei criminali, delle persone che vogliono commettere delitti. Viene trasmesso, presto verrà trasmesso in tutto il paese, mancano poche ore. Il film si svolge proprio nelle ultime ore prima che il governo pigi il bottone di questo segnale anticrimine e depotenzi di fatto il cervello di chi voleva commetterne, chiaramente con anche delle conseguenze piuttosto importanti. In questo scenario si muove Brick, il protagonista, che ha poche ore per cercare o di riuscire ad arrivare dall'altra parte del confine con il Canada, dove questo segnale non arriva e quindi c'è la salvezza, ma il confine è ovviamente militarizzato e si spara a vista. E anche cercare di non farsi ammazzare dai nemici, perché chiaramente queste ultime ore sono diventate ore di regolamento di conti, soprattutto se hai fatto il criminale e hai rapinato una banca, i 7 milioni di dollari che non hai restituito a chi dovevi. Insomma, la tua situazione non è particolarmente florida. Noi salutiamo al telefono Boris Sollazzo. Ciao Boris. Salve Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ben ritrovato anche in questo collegamento telefonico dopo tante puntate fatte con i nostri sistemi nuovi, quelli che ci ha portato a, come dire, a utilizzare la nuova pandemia, il Covid, ma adesso abbiamo provato a ritornare un po' alla formula originale, però andremo avanti un po' di qua e un po' di là in qualche modo. Boris, questo film aveva delle premesse interessanti, perché soprattutto mi sembra che quando parliamo di futuro distopico, e il cinema ne parla spesso, la fantascienza è spesso molto prossima, molto nei prossimi anni, non è distante anni luce, astronavi, ma è qualcosa che stiamo per vedere con i nostri occhi, e devo dire che non dico di neorealismo, ma insomma gli ultimi tempi, un po' la pandemia e un po' quello che sta succedendo negli Stati Uniti hanno avvicinato a qualcosa almeno di pararealistico, diciamo, a questo tipo di atmosfere. Ciò nonostante mi sembra che Olivier Megaton non riesca a staccarsi dal fumetto, ecco, rimane un fumettone abbastanza fisico, abbastanza virulento, ma che non entra forse come il mezzo cinematografico potrebbe dentro la profondità di questo tema. E direi pure magari, cioè se fosse rimasto all'altezza del graphic novel del 2009 staremmo in presenza di un prodotto dignitoso, non straordinario perché anche quello non era eccellente, ma perlomeno potabile. Il punto è che Megaton parla, per lui parla un curriculum che vede due Transporter, due Taken, il suo film migliore è Colombiana, ha fatto Red Siren, che è tuttora uno dei thriller melò più improbabili che abbiamo mai visto. E molti l'hanno definito una sorta di appendice di Besson, no? Una sorta di regista di seconda unità di tutta la produzione Europa Corp, probabilmente è così. La verità è che, come dici tu, però qui avevamo un ottimo soggetto, un soggetto interessantissimo, certo poco credibile perché si fa fatica a capire perché il segnale che si propaga nell'aria non arrivi in Canada, cioè si fermi al confine, è un segnale trampiano insomma nella sua intelligenza, e perché come i DPCM di Conte devono essere annunciati prima, cioè se hai un'arma del genere la usi prima, però effettivamente non avresti fatto il film, e la sospensione della credulità, siamo sinceri, è un qualcosa che spesso ci chiedono questo tipo di film. Il punto è che poi tutto è sopra le righe, la migliore fotografia di questo film è Michael Pitt, un redivivo Michael Pitt più in forma del solito, ma totalmente poco credibile nel suo essere assolutamente sopra le righe, improbabile anche come compagno di crimine, totalmente votato a guardare agli stereotipi, che è la stessa cosa che fa Megaton, cioè cercare di costruire una serie di scene madri tra inseguimenti, sparatorie, anche amplessi, sempre cercando di essere il più volgare possibile, non solo nel senso di triviale, ma proprio nel senso di popolare, nel senso più negativo del termine. Vi faccio un esempio di entrambe le cose, cioè sia della trivialità che della volgarità nel senso di vulgo: l'ingresso di Anna Brewster nel film con questo amplesso con il protagonista, e la canzone che lo commenta è Glory Hole dei Portishead, non proprio un esempio di grande stile né cinematografico né personale. Il film è tutto così, ha un difetto drammatico che per essere un film sconclusionato, poco credibile, con dei personaggi che tranne il povero Edgar Ramirez, che è un grande attore che si è trovato in un film sbagliato in cui c'è un miscasting e anche dei personaggi poco ben caratterizzati, dura anche 2 ore e mezza, cioè Megaton non si priva di niente e ci propina quasi tutto, e il film reale inizia dopo 1 ora e mezza, perché per 1 ora e mezza noi vediamo la preparazione di un colpo che è pure piuttosto noiosa. È difficile insomma amare un film del genere, già è difficile amare Megaton, ma poi amare un film del genere che aveva anche degli ottimi punti di partenza ma che li ha buttati così, è dura proprio. Nell'istante in cui ci colpirà, commettere l'ultimo crimine della storia americana sarà una questione di sangue. Tu ti vendichi, io seguo il retaggio. Facciamo del male a chi vuole amarci. E questo era The Last Days of American Crime di Olivier Megaton. Boris, rimani con noi, fra poco dobbiamo parlare insieme di quello che forse è il film della settimana, davvero, In viaggio verso un sogno, ma prima giochiamo insieme con il nostro DVD game, 2 tracce per riconoscere un film e provare a vincerlo in edizione un video. Cominciamo con la prima. Muovetevi, non c'è niente da vedere. Cosa hai detto? Ho detto sparisci, va via. Cosa hai detto? E avete sentito la prima traccia, un marchio famoso di un certo tipo di cinema molto giocherellone che è arrivato con una nuova edizione, una nuova versione proprio nell'ultima stagione cinematografica. Se avete già individuato il film, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it. Più tardi vi facciamo ascoltare un'altra traccia. Ho bisogno di soldi. Tu ce l'hai? Ma sei scemo, Vince? Io se vedo a mio figlio lo scanso. Che se mi chiede qualcosa io te le dico. Ti vuoi stare, calma? Sarà questo di me fuori nervoso. Se lo dobbiamo perdere, meglio adesso che non lo conosciamo. Sei tu che non lo conosci. Vedo che state un po' in difficoltà. Non ci rassegniamo. Io non ci rimango qua. Le avventure e disavventure, soprattutto di una famiglia, di due famiglie, di due nuclei familiari, due fratelli con le rispettive consorti nella Puglia di oggi. Siamo dalle parti di Martina Franca. È difficile fare l'agricoltore oggi già in generale, poi se ti deve passare un'autostrada sul tuo uliveto e te lo espropriano e te lo tagliano e ti tagliano le gambe con questo, diventa ancora più difficile. E poi c'è anche la vita privata, c'è un figlio che non arriva, il desiderio di averlo, e per poter coronare quel sogno una serie di compromessi, anche di quelli davvero indicibili. È questo il crogiuolo sotto il sole della Puglia di oggi, in una generazione che vediamo e leggiamo come una generazione che, come dire, ha perso alcune delle sue delle sicurezze che forse potevamo aspettarci, invece ci fossero ancora. Sono i protagonisti appunto di questo film, La Rivincita, con la regia di Leo Muscato, con la partecipazione nel cast di Michele Venitucci, Michele Cipriani, Deniz Özdoğan e Sara Putignano. Noi siamo al telefono, siamo in collegamento con il regista Leo Muscato, che saluto. Ciao Leo. Buongiorno. Allora, parliamo un po' del clima che hai creato in questo film, che mi sembra una cosa molto interessante, perché sei stato sempre sospeso fra dramma e per ogni tanto qualche stilla di commedia, no? Quasi. Però non è la commedia per far ridere, è la commedia per far capire quanto è beffarda la vita in certi momenti. Hai giocato un po' su questo tipo di registro? Sì, diciamo che è proprio una scelta che deriva anche dalla scrittura, dalla volontà di scrivere la sceneggiatura in questo modo, perché per raccontare le grandi tragedie contemporanee a volte l'arma dell'ironia può essere davvero un mezzo di difesa e anche di attacco e anche una possibilità per attutire dei colpi. La storia è fondamentalmente tragica perché insomma, i personaggi sono alla continua ricerca di una normalità fatta di un lavoro, fatta di un guadagno anche minimo per un sostentamento normale, la possibilità di poter avere un figlio, ma appunto, come dicevi te nell'introduzione, ad un certo punto questi nostri protagonisti si vedono privati anche delle cose più banali, no? Per poter condurre un'esistenza semplice e normale, e quindi c'è una continua rincorsa per arrivare appunto a questa normalità, che per fortuna arriva certo soltanto sul finale, e siccome si crea tanti momenti di tensione, ogni tanto trovare un modo per far suscitare una risata, certo, per smollare la tensione. Una normalità che sfugge, cioè più i protagonisti avanzano più la normalità avanza, e quindi diventa sempre un po' imprendibile. Tra l'altro, un'altra considerazione è che questa generazione, questo strato sociale che hai raccontato, non è uno strato sociale di dropout, di persone problematiche o senza magari dei valori o che ne so, è esattamente la fascia della gente normale, come si dice, no? E questo mi ha fatto riflettere durante la visione del film su quanto sia facile oggi per quel tipo di fascia sociale cadere nella disperazione, cadere nella miseria. Cioè la miseria non è più un tema, questa non è una scoperta, certo, non è più un tema solo di chi parte svantaggiato, ma anche di chi parte con potenziali sicurezze, ma arrivare nel cadere nel baratro è un attimo. Sì, anche perché questa nuova povertà di cui tragicamente ne parliamo da troppi anni, più passa il tempo e più diventa una povertà che tocca anche uno strato della società che non avremmo mai immaginato sarebbe potuta essere anche minimamente intaccata. Ma guarda, io non per portare acqua al mulino del mio lavoro, ma in questo momento storico, con il disastro che è successo con questa pandemia, molti nuovi poveri sono proprio fra gli addetti ai lavori del mondo dello spettacolo, che da un momento all'altro si sono trovati in una condizione di non avere più prospettive per il futuro, o perlomeno per un futuro a breve termine. Siamo stati i primi ad essere fermati in teatro e saremo probabilmente gli ultimi a ricominciare. E Morena, quanto vale? 10-12 mila euro. E due? Muore. E che ci sta in quelle tanche? Veleni. E se qualcuno mi scopre, io che dico? Fai finta che vedi ancora i fiori. Due crisantemi, due rose. Si sta vendendo il sangue. Il sangue, Sabino. Devo aspettare finché non lo trovo morto. Io dico soltanto di aspettare un altro po'. Il tempo di sistemarci e poi ne facciamo un altro. Un figlio è una cosa normale! E noi le cose normali non ce le possiamo permettere più! Leo, ricordiamo che intanto che il film è visibile su RaiPlay gratuitamente e fa parte di questa ondata di film che RaiPlay ha messo a disposizione di film del cinema italiano, tipo uno alla settimana, per poter far vedere anche un cinema italiano nuovo che non ha trovato la via della sala a causa della pandemia, ma che insomma trova possibilità di visione anche piuttosto importanti, perché sappiamo che i numeri su RaiPlay di alcuni esperimenti come questo stanno andando bene. Volevo soffermarmi, Leo, sugli attori. Hai scelto un cast tutto locale, in un certo senso, che per uno come me, per esempio, che è di origini pugliesi, riporta molto la fedeltà anche nel modo di gesticolare quasi di quella terra. Però dentro c'è questa protagonista che nei panni di Maya, Deniz Özdoğan, che ho trovato veramente una rivelazione. Come l'hai pescata? Io conosco Deniz da ormai 12 anni, 13 anni fa, quando abbiamo lavorato insieme per la prima volta in teatro sul Gabbiano. Lei faceva Nina, era Nina del mio Gabbiano, ed è un'attrice turca che vive in Italia da più di 20 anni, da quando ha cominciato la scuola la Silvio D'Amico, ed è paradossalmente è una di quelle attrici che lavora tantissimo e che non è mai libera, per fortuna per lei e per sfortuna per i registi che come me la vogliono intercettare, perché è brava ed è molto richiesta dai registi di teatro. Anche gli altri sono tutti attori che vengono dal teatro, che hanno un percorso decennale alle spalle: Michele Cipriani, Michele Venitucci, Sara Putignano, che anche lei come me di Martina Franca ha un percorso alle spalle molto importante, con registi, con nomini tipo Luca Ronconi, insomma, si è formata con persone così, ecco, per intendersi. Del resto anche tu arrivi molto dal teatro, no? Cioè, regista di opere molto spesso. Cosa ti ha portato un po' la tua esperienza nel melodramma su questo film? Ma io faccio teatro di prosa da 20 anni, mi sono avvicinato all'opera soltanto da 8 anni, e questo è il primo film, e la necessità, l'urgenza di avvicinarmi a questo mezzo era dovuto al fatto che per me, per Michele Santermo, l'autore della sceneggiatura, e per il produttore Cesare Fragnelli, che abbiamo incontrato strada facendo, ci sembrava assolutamente necessario raccontare questa storia e farla arrivare a un numero di spettatori quanto più possibile alto, perché questa storia arriva dal teatro. Io l'ho messa in scena per la prima volta 7 anni fa su un testo di Michele Santeramo, è poi diventato un romanzo, e una volta che il romanzo è uscito, ha avuto un successo, insomma, ci siamo detti che per dare ancora maggiore visibilità a questa storia di ultimi, a questa storia di avanzi, il cinema poteva essere un mezzo. Abbiamo scritto la sceneggiatura, ma non davamo per scontato che lo girassi io il film. Quello che ci importava era che il film arrivasse, questa storia, questi ultimi arrivassero agli spettatori. E poi con Cesare Fognelli, produttore di altre storie, con Rai Cinema, abbiamo trovato la possibilità di girarlo, di fare io stesso la regia, ed è un primo approccio che mi ha soddisfatto moltissimo. E allora, La Rivincita su RaiPlay gratuitamente. Leo Muscato, La Rosa Purpurea, grazie Leo, e risentirci. Grazie tante a voi, buona giornata. Vediamo adesso la linea alla regia. Allora, fra poco torniamo insieme, c'è da ascoltare la seconda traccia del nostro DVD game, ma c'è da parlare soprattutto di quello che forse, come dicevo, è il film della settimana. In Viaggio verso un sogno ritroveremo Boris Sollazzo fra poco. Quando arriva la cassa integrazione, dove ritiro i buoni per fare la spesa? Posso sospendere il mutuo e le rette dell'asilo nido? Posso revocare il contratto con il catering del matrimonio? Il coronavirus ha mandato in crisi tutti gli italiani. Mutuo, affitto, bollette, rate e persino la spesa quotidiana per migliaia di persone sono diventati un incubo. Parte così Homo Covid, lo sportello aperto agli ascoltatori, che troveranno le risposte di cui hanno bisogno sul sito di Radio 24, in collaborazione con consumerismo.it. Metteremo insieme i vostri quesiti per dare una risposta unica alle domande di tutti. Un prontuario per famiglie e consumatori, lavoratori, liberi professionisti, commercianti e imprenditori. Un canale a cui affidarsi per cercare il supporto necessario ad affrontare una delle crisi più gravi mai vissute prima dal nostro paese. Scrivete a duedidenari@radio24.it e redazione@consumerismo.it. La Rosa Purpurea. Hai lasciato che un ragazzino con la sindrome di Down, in mutande e senza la minima idea di come cavarsela in questo mondo, ti scappasse sotto il naso. Dicono che siete amici. Lo siamo. Meglio, scopri dove si è ficcato e riportamelo. Mi stai seguendo? Possiamo diventare amici o tipo compagni di viaggio. La scuola di wrestling è a Aiden? Sì. Per fortuna è sulla mia strada, ti ci porto. Le note della colonna sonora di In viaggio verso un sogno, di cui avete sentito una clip, The Peanut Butter Falcon, il titolo originale, che ha un suo perché dentro la storia di questo film diretto da Tyler Nielsen e Michael Schwartz, con Shia LaBeouf, protagonista assoluto, insieme a Dakota Johnson sul fronte femminile e a Zach Gottsagen, che è però il perno della storia. Perché è la storia di un ragazzo di 22 anni, Zach, che vive in una casa di riposo per anziani, affetto da sindrome di Down, senza famiglia, e i servizi sociali non hanno trovato di meglio che affidarlo a una casa di riposo, dove però il ragazzo non si trova proprio benissimo e soprattutto ha un sogno molto grande, che sembra però irrealizzabile stando alle sue condizioni di partenza. Gli ho promesso di portarlo alla scuola di wrestling. No, levati dal cervello che attraverseremo il fiume su quella zattera. Eleonora, a casa io non ci torno, ok? E quanto disterebbe? Sulla mappa così. Le tue dita sono in scala? Certo. Per noi è il momento di tornare indietro. Potremmo essere una famiglia. Gli amici sono la famiglia che ti scegli. I wrestler hanno sempre un alter ego, ti serve un nome. Falcon. Insomma, Zach, 22 anni, sindrome di Down, vuole fare il wrestler. Sembra una cosa impossibile, ma a crederci per primo è proprio questo ragazzo, un po' in fuga da tutto, anche e soprattutto da se stesso. Il protagonista, appunto, Tyler, impersonato da Shia LaBeouf, che invece ci crede, lo mette sotto la sua ala protettrice, gli fa fare questo viaggio in questi splendidi territori delle Outer Banks del North Carolina, terre fra acqua e campagna, un po' palude, un po' no, un po' mare. Ricordano molto le ambientazioni di Re della Terra Selvaggia, tanto per dire un film che ha avuto un grande successo negli ultimi anni. E però all'inseguimento di questa strana coppia, oggettivamente, in viaggio verso un sogno che è appunto il wrestling per un ragazzo down, c'è una ragazza che è l'istitutrice della casa di riposo, quella che si occupava proprio delle vicende di Zach, impersonata Eleanor, impersonata appunto da Dakota Johnson, che deve in qualche modo istituzionalmente prendere una posizione e forse anche mettere fine a questo sogno, ma forse anche no. Ritroviamo Boris Sollazzo in collegamento. Boris, è un film di grande poesia, è un film che ha le note emotive della sua colonna sonora, tutte sotto traccia, tutte con strumenti, come dire, acustici, non c'è artefazione, c'è veramente l'anima delle persone di fronte a questa natura prorompente, di fronte a sogni che in qualche modo bisogna alimentare. È un film sui sogni da alimentare in qualche modo, no? Sì, assolutamente sì, c'è questo folk e questo country acustico molto delicato che rappresenta benissimo per esempio il personaggio di Shia LaBeouf, no? Che è ruvido e allo stesso tempo dolcissimo, perché nella sua ruvidità, nella sua incapacità di trattare diversamente, anche se male, chiunque non riesce a fare differenze con questo ragazzo, questo eroe, che è l'eroe della sua storia, perché come nel bellissimo film spagnolo Io también, qui abbiamo un ragazzo, una sindrome di Down, che corona il sogno di recitare in un film, e quindi insomma in qualche modo è davvero l'eroe della sua storia, come è l'eroe della storia che siamo andati a vedere. Il film ovviamente, nel suo essere road movie tra due persone profondamente diverse, è qualcosa che abbiamo già visto, no? Cioè, vedendolo penseresti che potrebbe tranquillamente essere un Salvatores sopra le righe, parlando dell'ultimo film di Gabriele Salvatores. Ha però qualcosa in più. Intanto uno Shia LaBeouf che quando ci dirà che cosa vuole fare da grande sarà sempre troppo tardi. Ha un talento smisurato, almeno quanto l'ego e l'incapacità di essere lineare nella sua carriera, ed è anche il suo bello, insomma, il suo anarchismo, il suo partecipare a progetti folli, il suo magari andare a finire in un film così che potrebbe sembrare minore rispetto alla sua produzione mainstream e che invece secondo me scalda le corde più giuste del suo modo di essere al cinema, del suo modo di mettersi in scena, che è allo stesso momento molto duro e corrispondente però anche a quei tratti che sono assolutamente invece concilianti, che quasi ti vogliono abbracciare. E poi perché comunque la scrittura è sempre misuratissima, come dici tu, la storia è come la musica, non va mai oltre, non cerca mai la retorica, non cerca mai di approfittarsi anche della facile commozione che può prendere chi lo guarda, ma cerca sempre poi di raccontare la sua storia. Non c'è nulla di nuovo in questo film, ma è raccontato a mio parere tremendamente bene, e spesso nel cinema ci basta questo, ci basta che un film faccia il suo e che non sia necessariamente sempre un capolavoro, e speriamo che magari questo aiuti anche Shia LaBeouf a diventare un pochino più quadrato e prendersi quello che si merita nel resto della carriera. E questo è quindi In viaggio verso un sogno, The Peanut Butter Falcon, un film che è a disposizione in PVOD, come si dice in gergo, cioè in on demand a pagamento, quindi in streaming sulle piattaforme a pagamento. Lo trovate un po' dappertutto, Rakuten, Infinity, TeamVision, insomma le varie piattaforme che in questi mesi abbiamo imparato a conoscere, dove poter acquistare, diciamo così, i film nuovi. Grazie Boris, ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana, buon cinema. E questo era In viaggio verso un sogno, quindi, ma le proposte cinematografiche, le novità della settimana non sono ancora finite, fra poco ne avremo un'altra, però è arrivato il momento di giocare di nuovo insieme con la seconda traccia del film misterioso di oggi. Siamo in un gioco, dobbiamo trovare Spencer perché è qui anche lui. Spencer? Sì. È qui. Spencer il nipote di Eddie? Sì, Spencer. È qui anche lui? Sì. Sì, è qui e dobbiamo trovarlo. Siamo in Florida? E beh, qui abbiamo dato tanti, tanti indizi per portare a individuare questo nostro film misterioso della settimana. La Rosa Purpurea @radio24.it è il nostro indirizzo di posta elettronica. Scriveteci in un messaggio il titolo del film, per esteso, mi raccomando, come ho detto, un marchio già conosciuto nel cinema, ma questa è l'ultima uscita di questo franchise. Quindi titolo del film e vostro indirizzo. Fra poco sveliamo tutto, sveliamo il titolo, perché dobbiamo ancora raccontarvi un pochino del nuovo cinema che c'è in streaming, una proposta per i bambini, un family movie come si suol dire, una rivisitazione in chiave nuova e particolare della favola di Biancaneve e i sette nani. Si intitola Scarpette rosse e i sette nani. Ritroviamo a raccontarcela Chiara Pizzimenti. Questa è Favolisolandia, una terra magica di principi e principesse, di streghe e di mostri. Incidenti per strani eventi accadono tutti i momenti, e allora la gente chiama noi, i favolosi sette, i più grandi eroi di Favolisolandia, in particolare me, Merlino. I nomi sono da favola, l'aspetto però non corrisponde a quello che nell'immaginario collettivo quei nomi rappresentano. Merlino e Artù somigliano più a piccoli orchi verdi che a maghi e cavalieri, e la Biancaneve che incontreranno sul loro cammino non è l'esile fanciulla dei film Disney. Della favola di Biancaneve e delle altre classiche già finite sul grande schermo c'è l'idea di base, ma tutta rivisitata e rimescolata. Le magiche scarpette rosse sono il segreto della bellezza di Biancaneve. I sette principi sono stati trasformati in nani perché hanno colpito una fanciulla credendola una strega, era invece una fata. Per spezzare l'incantesimo devono ricevere il bacio della donna più bella del mondo. Non valgono però qui i canoni della bellezza da fiaba, almeno quelli che imperavano fino a Shrek. Conta chi si è veramente, non come si appare. Tu parli sempre dell'aspetto delle persone. Davvero? Sai, non vorrei dirlo, ma non vedo l'ora che tu veda il vero me. Che tipo di Merlino è il vero te? Puoi non crederci, ma il vero me è famoso, affascinante e popolare. Non basso, tarchiato e verde. Certo, tu sei basso, tarchiato e verde, ma sei anche una meravigliosa e affascinante persona. Beh, non so come dirtelo, ma se vedessi il vero me, allora capiresti cosa dico. Io credo di vedere il vero te. E mi piaci, così come sei. Se vi piacciono le favole destrutturate, questo è il vostro film. Scritto e diretto da Sung Hong e animato dal veterano Disney Jin Kim. Scarpette rosse, i sette nani, a Baby Kay a doppiare Biancaneve in italiano e Pio Amedeo a fare i principi. Ci sono equivoci, caricature, scorrettezze, risate, utili a riportare principi e personaggi delle favole classiche ai tempi moderni. Il tema è quello dell'apparire e dell'essere, il body shaming, si direbbe adesso, che l'aspetto fisico non è tutto e l'anima è ben altra cosa. E Chiara Pizzimenti ci ha raccontato Scarpette Rosse e i Sette Nani. Adesso è il momento di ridare di nuovo la linea alle Strade in Diretta. Fra poco torniamo. Ci aspetta Elisabetta Sgarbi che ci racconta tutta la parte cinematografica della Milanesiana, con particolare attenzione a una novità, insomma qualcosa di inedito e di sconosciuto che appartiene a Carlo Verdone. E poi tutto il cinema da vedere dai palinsesti delle TV gratuite con Giulio San Giorgio di FilmTV e la soluzione del nostro game. Restate con noi. La Rosa Purpurea. Di nuovo insieme alla Rosa Purpurea, la quarta parte del nostro programma, esaurite un po' le proposte, le novità, una volta dicevamo in sala, per il momento in streaming, ma comunque sempre di novità si tratta. Noi vogliamo parlarvi di qualcosa invece che avverrà, perché si sta mettendo in moto anche il meccanismo dei festival. Ne abbiamo parlato nelle scorse settimane, proprio nella puntata speciale del 2 giugno abbiamo affrontato il cosa sarà di Locarno, Venezia. Cannes questa settimana ha fatto un'operazione che è stata molto criticata, insomma, che io trovo comunque dei tratti di genialità ce li abbia, cioè quello di presentare una selezione di un festival che non c'è di fatto, cioè ha detto questo sarebbe il line up del Festival di Cannes, ma il Festival di Cannes non c'è, però questi film potranno fregiarsi, ovviamente film tutti molto interessanti, potranno fregiarsi della palma sulle locandine, per esempio, quando andranno fuori a fare promozione per la loro uscita in sala. Insomma, un modo di marchiare il territorio, diciamo così. Adesso vedremo quale sarà la risposta di Venezia. Fra i festival che stanno cominciando, segnalo questa settimana Biograph Film Festival a Bologna con la versione streaming, ma anche una proiezione live action, chiamiamola così, in carne e ossa, perché il tentativo è quello appunto di provare a ricominciare anche questo. La Milanesiana invece, che è l'invenzione di Elisabetta Sgarbi, che da tanti anni ormai a Milano è un elemento, è un appuntamento, come dire, imprescindibile della parte dell'estate culturale, in qualche modo è veramente fondante. La Milanesiana, in una situazione come questa, chiaramente col distanziamento e tutte le problematiche relative, ha dovuto un po' inventarsi, e Milanesiana 20 è diventata, che sarà dal 10 giugno al 6 agosto per quanto riguarda letteratura, musica, filosofia, teatro e cinema appunto, Milanesiana sarà anche itinerante quest'anno, è un festival molto particolare, tra l'altro piccola nota di colore, il simbolo è una rosa multicolore, siamo una rosa solo purpurea, però come dire, in qualche modo ci parliamo. Abbiamo voluto parlare proprio con Elisabetta Sgarbi dell'aspetto cinematografico di questo suo festival, di questa Milanesiana, perché è un cartellone, quello cinematografico, molto interessante, che spazia da Puppi Avati a Fellini, da Amos Gitai a Verdone, persino Artusi diventa un film, il grande Pellegrino Artusi. E allora abbiamo chiesto a Elisabetta Sgarbi di raccontarci un po' quello che è il panorama cinematografico di questa Milanesiana 2020, che è resistente e anche un po' itinerante. La Milanesiana quest'anno è dedicata al tema dei colori, a 40 incontri, 112 ospiti e 12 città, ed è un festival che viaggia. Nella Milanesiana la sezione cinema è sempre stata particolarmente importante, e quest'anno avremo il 6 luglio nel cortile di Palazzo Reale a Milano il film di Amos Gitai, Rabin, The Last Day, nell'anniversario di Isaac Rabin, 25 anni dalla morte. Amos Gitai dialogherà per presentare il film con Ferruccio De Bortoli e Elena Leventhal. Avremo però un cinema che viaggia come la Milanesiana anche arrivando in Emilia-Romagna, per cui il 4 di agosto a Sant'Arcangelo di Romagna ricorderemo i 100 anni di Fellini e di Tonino Guerra, raccontando la loro opera anche artistica e grafica e pittorica, e il racconto lo farà Vittorio Sgarbi, che ha conosciuto entrambi. Però ci sarà un racconto anche del cinema di Fellini attraverso Ermanno Cavazzoni, che ha scritto il poema dei Lunatici, da cui è stato tratto l'ultimo film di Fellini. Poi il 5 agosto a Forlimpopoli, sempre appunto in Emilia Romagna, abbiamo una sigla meravigliosa, Milanesiana di Riviera, degli Extraliscio. Qui celebreremo Pellegrino Artusi, e quindi un altro anniversario, con un corto di Yervant Janikian. Questo corto è tratto dai diari di Angela e racconta la sua cucina e racconta il grande libro appunto della cucina romagnola, e ci sono le note sulla storia dell'alimentazione nella lettura di Lucrezia Lerro. Uno spazio importante ce l'ha anche un evento dedicato al grande Fabrizio De André e alla PFM, al loro concerto mitico che è stato portato sul grande schermo da Walter Veltroni a Milano. Il 25 luglio avremo l'omaggio a Fabrizio De André con la partecipazione del regista di un documentario intitolato Il concerto ritrovato PFM ed è Walter Veltroni. Ci sarà anche Dori Ghezzi, ci sarà Giordano Meacci, Francesca Serafini, Patrick Divas e Franz Di Cioccio. Tutto questo nel cortile di Palazzo Reale. E c'è anche una serata, come dicevamo anche prima all'inizio di trasmissione, ci sarà un Verdone che non vi aspettate, una serata particolare dedicata a Carlo Verdone, fotografo di nuvole. Sì, infatti la milanesiana arriverà a Napoli con una mostra in anteprima assoluta, perché nessuno ha mai visto le opere fotografiche di Carlo Verdone, glielo abbiamo chiesto con Paolo Mereghetti e Carlo all'inizio non era convinto, poi ha voluto darci queste meravigliose 40 fotografie sul tema delle nuvole, una sorta di nuvolario di Carlo Verdone. E mi fa piacere che Laura Valente abbia voluto accogliere al Madre questa mostra che inaugura il 30 di luglio e chiude il 1 di novembre ed è la prima volta per noi a Napoli e spero sia solo l'inizio di una lunga collaborazione. Elisabetta Sgarbi allora ci ha raccontato la Milanesiana 2020, soprattutto per quanto riguarda il cinema. Noi andiamo invece alla zona che riguarda i film da vedere a casa. Li stiamo vedendo tutti a casa, però in questo caso quelli proprio o in un video o nei palinsesti televisivi in chiaro e gratuiti, cominciando dal nostro game di 7 giorni fa. Ma cos'è? Disinfestano. Chiudi la finestra. Lasciala aperta, così avremo lo sterminio gratis. Abbiamo detto era un film, è un film che ha contrassegnato la stagione cinematografica 2019 fino ad arrivare agli Oscar vinti. Si trattava di Parasite, l'avete indovinato veramente in tanti. Le più brave sono state due nostre ascoltatrici, Anna Sartor di Venezia e Gianna Viriglio di Ferrara. Saranno loro a ricevere il Blu-ray di Parasite che ci facciamo raccontare da Giulio San Giorgio, direttore di Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco e un saluto ai radioascoltatori. Siamo a Seul nei giorni nostri, una famiglia di basso ceto, letteralmente perché abita in uno scantinato, ne raggira una di ceto altissimo, sgomitando per eliminare la servitù precedente al fine di trovare impiego presso il caldo domicilio da archistar del manager e della sua famiglia. Il problema è che nel sottosuolo, nella cantina della casa, c'è un ospite ulteriore. Il piano precipita verso il basso, naturalmente. Per Bong Joon-ho, pensate al treno di Snowpiercer, il conflitto sociale è sempre stato in primis questione di spazi, qui dal basso all'alto. E non è una metafora sofisticata, lo sappiamo, ma il suo simbolismo, riassunto in quella roccia regalata nei primi minuti che si rivela oggetto contundente prima che allegorico, è letterale, brutale, caricaturale, grottesco e ranghignol. Come il Leone d'Oro Joker, la Palma d'Oro 2019 è un grande film popolare sul presente, oggi in una sfiziosa steelbook con due dischi e una postcard, una confezione da Oscar anche se gli extra latitano. E allora, Giulio San Giorgio, dopo quello che è il nostro game della settimana scorsa, Parasite, un grande film, un altro grande film che andiamo a pescare dai palinsesti in chiaro delle TV della prossima settimana, lunedì 8 giugno su Iris, all'Eroe 21, c'è Scarface, il grande film di Brian De Palma con Al Pacino. Quindi con queste due fabbriche io posso garantire una produzione di 200 kg di roba già raffinata per 12 mesi all'anno. L'unico problema è che non ho un mercato fisso. Per cui quello che a questo punto mi serve è qualcuno negli Stati Uniti che possa garantirmi di comprare un quantitativo di almeno 100 kg al mese. Ah, questo è un impegno un po' pesante, Mr. Sosa, sa, prima di decidere. Peccato che non ci sia Frank, dovrebbe parlarne con lui. Sì, mi avrebbe fatto piacere se fosse venuto. Lui sarebbe venuto volentieri, ma sa, col processo che gli comincia tra poco, gli è un po' difficile lasciare il paese. E ha mandato voi al suo posto. Sì. Lunedì sera, ore 21... Iris, Scarface, titolo tornato in auge dopo l'annuncio di Luca Guadagnino che ne vuole fare uno dei suoi remake critici dopo quello dedicato alla piscina e quello di Suspiria. Tony Montana è un rifugiato cubano a Miami e va dalla stalle alle stelle della cocaina senza ritorno. Andrò fino in fondo e farò un film porno pieno di suspense marchiato con la X. Vogliono vedere la suspense, vogliono vedere il terrore, vogliono vedere il sesso, sono la persona giusta per questo. Questo disse Brian De Palma pensando a rifare rifacimento del grande classico del noir di Howard Hawks, facendosi nemico chiunque a parte la storia, che gli darà ragione, perché questa sua versione è uno dei migliori gangster movie della storia del cinema, un film che fece sì scalpore mediatico, mettendo un più a tutte le caratteristiche dell'originale, ma anticipando anche tantissimo cinema postmoderno che verrà, anche se il film è meno iperstilizzato di quel che il maestro ci ha abituato. Strepitosa colonna sonora di Giorgio Moroder, un cast fuori misura, Pacino, Pam, Pfeiffer, un film per me perfetto. Le ragazze di Piazza di Spagna sono tutte belle, con quell'aria di gaie maschiette scanzonatelle. Una sola la riconosci in mezza mille, una sola tra le mille. E questa volta ci siamo voluti far accompagnare dalle note della canzone resa celebre dal film Le ragazze di Piazza di Spagna di Luciano Emmer, che è un po' veramente un manifesto di un certo periodo, di una certa epoca del cinema italiano. Martedì 9 giugno, TV2000 alle 21.10, Le ragazze di Piazza di Spagna. Tre ragazze, appunto, di Borgata, lavorano in una sartoria in Roma Centro. Marisa deve scegliere tra l'innamorato e la carriera da indossatrice, Elena pensa al suicidio, Lucia accetta uno spasimante. Un arioso emblema del neorealismo rosa, maglia comunque strettamente riduttiva per il talento di Luciano Emmer, che qui anticipa una modalità di racconto che sembra quella di tante serie televisive odierne. Al contempo classico nella costruzione dell'inquadratura e modernissimo, Emmer è con Castellani uno dei pochi cineasti capaci di capire l'importanza dei sogni nel cassetto nell'Italia degli anni 50, e con Pritangeli il regista che meglio di tutti sa dar voce alla modernità del femminile rispetto all'arcaicità patriarcale del maschio italiano. Ed è soprattutto Emmer, nostro contemporaneo, per la spregiudicatezza con cui fin dagli anni 40 non si limita a seguire il sogno del cinema, ma lavora a tutto campo in quella che oggi definiremmo la galassia dell'audiovisivo. E allora Le ragazze di Piazza di Spagna chiude le segnalazioni di Film TV. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima settimana con le segnalazioni di Film TV. E siamo giunti alla fine della nostra trasmissione, ce lo dicono le note della nostra sigla. Come sempre l'epilogo è affidato allo svelamento del nostro film misterioso di oggi. Abbiamo giocato con Jumanji The Next Level, l'ultimo capitolo in ordine di tempo di questa che è diventata anche a suo modo una saga con tante epoche e tanti film. I vincitori la prossima settimana, quando torneremo qui alle 18 come ogni sabato a raccontarvi tutto il cinema che c'è alla Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisi.